cessa, ma to che fu. Che fu. Nulla, una gru che divenne Airon, calando giù. Torto ragion, copa o virtù, paron saprà lo mio grappon, troppo buon. Rispondi perché volo tu per cose laggiù. Questa tutte c'io nominar fratello ingustuoso non gli legge oblio.